5i. Ascolta e trasforma. Loro escono perché vogliono camminare. Loro sono uscite perché volevano camminare. Aprono la finestra perché hanno caldo. Hanno aperto la finestra perché avevano caldo. Accendono il riscaldamento perché hanno freddo. Hanno acceso il riscaldamento perché avevano freddo. Non mi aspettano perché è tardi. Non mi hanno aspettato perché era tardi. Non mi aiuta perché non può. Non mi ha aiutato perché non poteva. Luigi va via perché ha un appuntamento. Luigi è andato via perché aveva un appuntamento. Mina corre verso la stazione perché ha molta fretta. Mina è corsa verso la stazione perché aveva molta fretta. Preferisce restare perché piove a dirotto. Ha preferito restare perché pioveva a dirotto.